Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio ad agosto del 1814. La sesta coalizione marcia su Parigi e la occupa. Napoleone abdica, esiliato all'Elba. La Francia torna ai confini pre-rivoluzionari, il Papa a Roma tra la folla esultante. Maxi truffa la borsa inglese sulla falsa informazione della morte di Bonaparte. Il Times di Londra installa la prima rotativa a vapore, esce la versione indiana del quotidiano. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Se non già terminata, l'era napoleonica sta comunque volgendo al termine. Le truppe della Sesta Coalizione hanno preso Parigi e l'imperatore a questo punto è tale solo di nome e non di fatto. In fondo le cronache di questi mesi erano già state scritte nel 1812 e nel 1813. La disastrosa campagna di Russia e poi la sconfitta di Lipsia avevano segnato il destino dell'uomo che ha dominato l'Europa. L'ingresso delle truppe della Sesta Coalizione a Parigi, l'insuccesso dell'estrema difesa di Bonaparte sono stati una sorpresa per pochi. In Francia Napoleone lascia il trono a colui che l'Europa conservatrice considera il legittimo regnante, Luigi XVIII, duca di Provenza. Per l'imperatore, che conserva il titolo, si è scelta come destinazione d'esilio l'isola d'Elba, dove è approdato in maggio dopo un tentativo di suicidio e una fuga nelle vesti da ufficiale austriaco per evitare il linciaggio. Col Trattato di Parigi, intanto negoziato dall'ex ministro bonapartista Talleyrand, la Francia torna ai confini precedenti il 1792. Intanto in Italia gli austriaci controllano Lombardia e Veneto, mentre Torino e Roma hanno ritrovato i loro monarchi. Vittorio Emanuele I è a Palazzo Reale, Papa Pio VII è tornato nella città eterna tra la folla festante. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E questi fatti erano talmente nell'aria che ben prima che avvenissero, in febbraio, sono stati oggetto di una maxi frode alla Borsa di Londra. Tutto è avvenuto quando un uomo, apparentemente dalle credenziali a posto, è approdato in Inghilterra portando la notizia della presa di Parigi e della morte di Napoleone. Nell'arco della giornata i titoli del mercato britannico sono cresciuti moltissimo, per poi, sulla smentita arrivata in serata, tornare ai livelli del giorno precedente. Nel frattempo, qualcuno che aveva comprato azioni nelle settimane precedenti ha venduto. Le autorità di borsa stanno investigando. Intanto la Gran Bretagna, ancora alle prese con la guerra contro gli Stati Uniti, da notizie che arrivano in queste ore, i soldati britannici sarebbero arrivati fino alla capitale Washington e avrebbero dato fuoco, tra l'altro, al palazzo presidenziale. Infine una notizia che riguarda il nostro mondo, quello dell'editoria. Il Times di Londra, per uscire dalla crisi pesante che lo sta colpendo, ha deciso di investire in tecnologia installando rotative a vapore. Consentiranno la stampa di 1000 fogli l'ora circa. Nel frattempo il quotidiano si espande all'estero, è stata aperta anche una sede in India. È tutto dal nostro sito, potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento o fatelo prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.